Il est précisément 20h. Buonasera cari amici della Tela Sonora, Radio Alma 101.9, bentornati, siamo al consueto appuntamento del venerdì, con me in radio un ospite d'eccezione, Beatrice, che parlerà in francese, Paola Grauso alla regia e Gabriella T al microfoni. Beatrice, bonsoir. Et on parlera de poésie avec toi, parce que tu es un écrivain, et je continue en italien, parce que l'émission c'est pour les Italiens, tu mi pardonneras. E cari amici, allora questa sera abbiamo contatti telefonici con Vera Lucia de Oliveira, Cianghito dalla libreria Poesia Incompleta di Lisbona e Vittoria Surliuga. Poi avremo una telefonata, un numero telefonico, questo è uno spazio che abbiamo deciso di dedicare qui alla Tela Sonora. Si chiama 5 minuti di coincidenze, formuliamo un numero telefonico e il poeta che risponderà si presenterà, dirà chi è e leggerà le sue poesie e lascerà un messaggio alla Tela Sonora, il tutto in 5 minuti e quindi dopo 5 minuti esatti la linea verrà interrotta. Quindi come vedete è una serata abbastanza così carica. So che prima di intervistare la prima persona, quindi Vera Lucia de Oliveira, Paola vuole presentare un gruppo particolare. Sì. Paola, vuoi parlarci dei tuoi amici di Napoli? Sì, sì, loro si chiamano Double Sense, sono campani, quindi i miei conterranei, per cui sono particolarmente coinvolta nella cosa. E uno di loro è un mio carissimo, carissimo amico, per cui... Bene. E niente, ascoltiamo il loro brano, loro sono molto bravi, fanno dub. Ok. E ascoltiamo il loro brano e poi dopo magari li presento per 30 Perfetto. Secondi. Perfetto. Allora, vuoi mandare già il brano? Perché se non erro sono 3 minuti. Sì, mandiamo il brano. Ok, e poi mentre tu, mentre ascoltiamo questa bellissima musica, io scambierò due parole in privato con Beatrice e chiamerò Vera Lucia al telefono. Quindi, quando sei pronta, Paola? Pronta. Benissimo, non scappate, restate con noi. I'm free. Ok, loro erano i Double Sense, miei carissimi amici. E loro sono napoletani, come ho detto prima. Vi consiglio di visitare il loro MySpace, www.myspace.com, Double Sense, dub come dub, all come all, sense come sense. E così rimarrete aggiornati sui loro concerti e sulle loro news. E io, dato che abbiamo il tempo contato, vorrei sintetizzare la loro musica e ciò che loro, la loro arte, con queste brevi parole prese dal loro MySpace, quindi loro parole: Harmony is the aim, freedom is the way, music is the key. Faccio a loro un enorme bocca al lupo e spero di vederli prestissimo, sia in Belgio che in Italia. Ciao! Siamo i DAPA All Sense e speriamo veramente di invitarli anche a Bruxelles per un concerto e magari un concerto in diretta. Quindi con questo auspicio diamo un caloroso invece benvenuto a Vera Lucia di Oliveira, che è con noi qui in radio. Ciao Vera! Ciao, bene, allora con me in radio anche Beatrice, nonché Paola Grauso, che hai appena ascoltato. Quindi hai 10 minuti, tu sai che la tela sonora invita poeti, e scrittori, comunque ci preme ascoltare ciò che scrivi, perché, e magari un messaggio che vuoi lasciare alla tela sonora. Sì. Allora, tu sai che sono appena tornata da Firenze perché sono andata a ricevere un premio che mi ha fatto molto felice, che è il Premio Internazionale di Poesia Piero Alinari, per una raccolta inedita che verrà adesso pubblicata, è successo proprio l'8 luglio. E, che dire, quello che ho detto anche quel giorno, la poesia è qualcosa di così importante, si dà così poco spazio alla poesia, no? Si dice sempre non vende, non interessa, invece il linguaggio poetico scava nelle cose, scava dentro le persone, nell'animo umano, per guardare oltre, per vedere quello che c'è di più profondo. Io penso che la poesia in un certo senso spaventi le persone, proprio questo radicale svisceramento della realtà che è proprio del poeta possa fare paura. Perché le persone hanno paura di vedere quello che hanno dentro, hanno paura di vedere in se stesse ma anche negli altri. Io con questa raccolta che ha vinto il premio, che si chiama La cane quando è sola, in un certo senso ho voluto fare questo percorso e l'ho compiuto, insomma, dentro a tanti discorsi, a tante parole e a tante persone anche, che incontro, che conosco, o a volte anche che non conosco, ma che vedo di sfuggita, che ascolto mentre faccio la fila al banco, alla banca o alle poste e così via. E dentro queste parole molte volte sento che c'è tanta disperazione e c'è proprio il desiderio di far vedere, di arrivare all'altro, di farsi sentire, di farsi ascoltare, e quindi in qualche modo questi discorsi rimangono dentro di me, non so perché, mi fanno pure male a volte, vorrei non ascoltarli, però rimangono lì e si trasformano in parola, chiedono in qualche modo in prestito le mie parole e la mia voce, la mia piccola voce, perché che voce possono avere i poeti oggi? Non contano assolutamente nulla nella società, però quel poco che posso fare o che posso dare, quella piccola voce, alla fine le uso anche per parlare di questo. E quindi sia questo libro che ha vinto adesso, ma anche altri libri che ho pubblicato in precedenza, sia in italiano che in portoghese, perché scrivo nelle due lingue, in un certo senso portano queste parole, queste voci che rimangono, che chiedono un po' di attenzione, un po' di silenzio a volte, e un po' di affetto a volte anche, no? Ecco, ci vuoi leggere qualcosa? A Adesso io vorrei leggere invece una mia parola, visto che molte volte lascio agli altri questo spazio nel mio cuore e nelle mie poesie. Invece adesso vorrei anch'io dire una mia parola. Posso leggere nelle due lingue? Benissimo. Sì, perché okay. Perfetto, c'hai tutto il tempo perché hai ancora 7 minuti, quindi direi che sì, è l'ideale. Allora leggo prima in portoghese, perché questa poesia è stata scritta in portoghese, e poi in italiano. D'accordo. In una traduzione che è mia. Benissimo. A musica. Tengo musica dentro, è la mia vita. Quando levanto, ela già mi spera. Quando cammino, ela cammina na minha frente. Eu sempre estou dançando na minha carne. Sempre estou ouvindo um som que a minha alma sabe que existe, apesar da dissonância da minha vida. Da música. Ó, uma música dentro. Lei me habita. Quando me alço, lei já me aspetta. Quando camino, lei me cammina davanti. Io sto sempre danzando nella mia carne, sto sempre sentendo un suono che la mia anima sa che esiste, malgrado la dissonanza della mia vita. Ecco, questa poesia è stata pubblicata nel libro Il Denso delle Cose, che è uscito, pubblicato dalla Besa Editrice, ed è questa, parla un pochino di quello che è anche per me la poesia. Quindi per te, se ho ben capito, se ti interrompo, è un po' una musica di parole? Pronto? Sì, dico, questa poesia per te è come una musica, come se fosse una musica? Sì, è così. Bene. È sempre qualche cosa che sento, sto molto attenta anche ai suoni, alle parole, alle musiche, ai rumori, a tutto. E quindi dentro di me la mia, come sento la poesia, è come una musica, è come un ritmo che prende poi forma e invita anche parole, perché ha bisogno di parole, no? Io non compongo musica, compongo testi, no? Che certo. Sono fatti anche di parole, sì, associate naturalmente a un ritmo, infatti è una sonorità che va di pari passo con il contenuto, con quello che si dice o si vorrebbe dire. Ecco, non so. Direi che il fatto di averti invitato alla tela sonora esplica proprio questo tuo concetto, perché la tela è un modo per tessere contatti, ma anche per unire le parole. Noi diciamo che in questa tessitura tessiamo anche incontri con i poeti, ma la sonorità sono proprio, è la musica che c'è nelle parole, come vengono lette, come vengono e come viene anche tradotto questo movimento dell'anima che, come tu dici, tu senti e poi lo traduci in parole, dando musicalità per gli altri che ascoltano e leggono. Infatti. Senti, hai tempo per leggerci ancora qualcosa per chiudere questa intervista? Perché le tue poesie sono molto belle. Potrei leggere qualche testo. Sì, va bene. Scritto direttamente in italiano, perché scrivo anche, come ho detto prima, anche in italiano. Benissimo, se è un testo breve, benissimo. Eh? È un testo breve, dico. Sì. Benissimo. Sì. Allora, aspetta. Stavo cercando uno. Qui parlo di una chiocciolina, ma non riesco a trovare nel libro. Un momento, che il libro verrà l'anno. E intanto approfitto per dire che in questo momento, no? In questo momento che in Italia anche è stata votata una legge che in qualche modo discrimina anche le persone che viaggiano, vorrei proprio leggere questa poesia che parla un po' di questo viaggiare. Allora. Sognavo una casa sulle spalle, come una lumaca, dicevo. Le lumachine non si stancheranno? Ma poi pensavo, vuoi mettere la comodità di partire con dentro il corpo, le pareti per avvolgerlo? Ecco, quindi questa poesia, cioè volevo concludere questa chiacchierata con te, con questo testo. Grazie, mi piace molto perché io ero amante delle lumachine quando ero molto piccola e infatti mi stuzzicava sempre l'idea di pensare che si muovessero col loro corpo, con la loro casa sulle spalle, che certo, è il comfort per eccellenza. In qualsiasi momento sei a casa ma viaggi e il tuo viaggio è appunto la nostra vita. Bene, grazie Vera, abbiamo iniziato questo venerdì veramente in eccellenza. Ti ringrazio per aver partecipato alla tela, ci sentiremo e attendo ancora le tue poesie da pubblicare sul nostro blog. Un bacio grande, grazie. Ciao. Saluto a tutte le persone grazie. In ascolto. Grazie, ciao, presto. Bene, allora abbiamo concluso la telefonata con Vera, come avete detto abbiamo parlato anche di chioccioline con la casa e la musicalità delle parole e della poesia. Ma adesso approfittiamo di Beatrice che abbiamo qui con noi e avec Beatrice on va parler en français. Vous savez que l'étoile sonore, la tela sonora, c'est un espace pour la poésie, mais à niveau européen, on s'engage pour parler plusieurs langues, on invite des poètes qui habitent en Europe et même parfois à l'étranger. Et voilà. Alors, Béatrice, je te donne le micro. Tu sais que l'étoile sonore invite des poètes. On aime bien écouter la voix des poètes. Et je trouve que c'est génial parce que avoir quelqu'un qui parle très bien français ici à la radio, oui. C'est, pour nous, c'est vraiment un grand succès. Ben, voilà, je te donne le micro. À toi d'expliquer ta poésie, de lire ton poème. Bonsoir. Bonsoir. Daniela, merci de m'avoir invitée. J'ai écrit un poème avant de venir à 18h. Ok. Et je le lis, c'est un poème inédit. Mm-hmm. Et j'aimerais bien être reconnue un jour. Mais voilà, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Oui, il faut espérer. Et je suis une maman. Et j'ai écrit « Ô infinie divinité, divinité ailée, taureau aux ailes d'or ». Dieu de l'orage, ouragan, Uranos, Dieu du ciel et de l'infini. Oméga, divinité mâle ou femelle, de toute antiquité la bataille sera conquise. Conquistador, libre à toi de renouer avec le passé, le futur. L'avenir est à nous tous, qui patientent, les femmes, les hommes, les fils, les gendres. En fait, c'est un poème qui a un rapport avec la mythologie antique, mm-hmm. néo-hittite et classique. Oui, parce que tu n'es pas seulement une poétesse, tu es une historienne d'art, archéologue aussi. Oui. Et voilà. Et pourquoi alors tu t'intéresses à la mythologie? Parce qu'il y a un mystère, quelque chose qui fait liaison avec le passé. Avec les rêves. Le rêve. Oui, c'est très bien. Oui, le rêve. Et tu parles aussi du futur, de l'avenir. C'est important pour toi, penser à l'avenir, pour ton enfant, voilà, pour ta fille, pour ta famille, et pour toi également, je pense, non? Qu'est-ce que c'est pour toi, l'avenir, alors? L'avenir, c'est les étoiles. Les étoiles. Voilà, l'étoile sonore, déjà. Et après, bon, chaque étoile, alors, un poème, une poésie. Et est-ce que je peux te demander si tu as toujours écrit des poésies dans ta vie, des poèmes, ou si c'est vraiment une passion que tu as eue que maintenant? J'ai commencé à écrire il y a plus de 30 ans, et puis il y a eu une très grande interruption, j'ai commencé à réécrire récemment. Voilà. Et ça t'aide beaucoup, la poésie, c'est pour toi une façon d'exprimer, comme disait avant Vera Lucia de Oliveira, que la poésie pour elle, c'est la musique, elle sent la musique dans son corps, et après, elle essaie avec des mots d'expliquer cette musicalité pour écrire et pour donner son poème aux autres. Est-ce que c'est quelque chose pour toi? C'est très beau ce qu'elle dit. Oui, elle est géniale, Vera. Mais toi aussi, parce que je pense que la poésie pour toi, c'est un mouvement d'âme, ce que j'ai compris, les personnes qui font des études, qui sont à un moment donné, pas exaspérées, mais quand même très fortement liées à l'art, qui sont à l'histoire de l'art, forcément, ils vont petit à petit essayer de découvrir les mystères qu'il y a autour des objets d'art qui sont cachés, qui sont plusieurs longtemps restés dans un fossé, dans la terre. eh bien, voilà, il faut découvrir. Alors, c'est un peu un mystère. Oui. Chaque objet, quand tu trouves un objet, c'est l'histoire liée même à cet objet. Alors, oui. La poésie, c'est quoi? Un mouvement de l'esprit, c'est une façon d'expliquer ce qu'il y a de mystérieux dans notre vie, dans l'avenir, parce que nous, on ne connaît rien de notre avenir. On peut avoir un rêve, mais on sait rien de futur. La vie, c'est maintenant, c'est l'instant présent. Et avec la poésie, c'est quoi une, tu essayes de rentrer en contact avec toi-même. Je sais, c'est quoi la poésie pour toi? De rentrer en contact avec les autres. Voilà, mais c'est très bien, mais génial. C'est pas un mouvement, alors, typiquement individuel, c'est quelque chose. Alors, tu écris des poésies pour les dire, alors, et pour un jour peut-être les publier, parce que... Oui, j'aimerais bien. Voilà. Mais voilà, je te souhaite, pourquoi pas, de les publier. Est-ce que tu as encore des poésies pour nous? Je viens d'écrire une poésie en attendant mon mari. Je voyais que tu étais en train d'écrire. Voilà, je t'attends, mon amour, et dans la voiture, avec son œil privé d'amour, d'attention féminine pendant quelques minutes, une heure ou deux. Nous attendons une grande poétesse à Radio Alma, la radio des animés. Quelle exclusion, quelle injustice. Génial. Il y a même des lumières ici. Mais alors, l'amour, c'est qui? Tu peux le dire? C'est qui l'amour? C'est l'univers. L'univers. Quel bel mot. Mais oui, en effet, l'amour le plus grand, c'est l'univers, parce que nous, on fait partie de l'univers, et les autres sont nous-mêmes. Okay, on est dans cet univers, mais il ne faut pas penser que nous, on est unique. Nous tous ensemble, on fait partie de l'univers. Et comme disait quelqu'un, univers, aller vers l'union. D'accord. Voilà. Oui. Et bon, Béatrice, si tu as envie d'encore de dire quelque chose pour Céline, voilà. J'aimerais renouer contact avec une amie qui habitait Avenue du Roi. Oui. Dont nous venons de passer l'appartement. Elle s'appelle Rosine Jacquemart. D'accord. Et je l'ai connue à Bruxelles il y a très très longtemps. D'accord. Et mon mari la connaît aussi. D'accord. Alors on félicite cette amitié. Oui. On donne le bonjour à ta copine. Oui. Et peut-être un jour on va l'inviter également à la oui. radio. Si... Et voilà. Alors je trouve que Béatrice a donné vraiment un moment d'inspiration artistique. Une façon d'écrire la poésie tout à fait immédiate. C'est une chose qui nous montre... les dizaines et des milliers de possibilités d'écrire poésie. La poésie, c'est dans notre vie, il ne faut pas écrire, on sent la poésie et après, on écrit les mots de notre poésie sur papier pour les autres, pour offrir quelque chose. C'est un acte d'amour, la poésie. Eh bien, je te remercie beaucoup, Béatrice. Merci, Daniela. Je pense que c'est le moment, l'heure de passer di con Paola avevamo previsto di questa sera due pezzi musicali, Zeno, Parteciperò e The Parrot, che sono già stati qua in occasione della Troupe Nomade. Bene, quindi a te di scegliere chi vuoi per prima passare, così approfittiamo e chiamiamo poi Changuito per la libreria. Scelgo The Parrot. Benissimo. Allora in ascolto, restate con noi e tra un po' avremo occasione di parlare con Changuito. Buonasera cari amici radioascoltatori. Buonasera, io mi chiamo Federico Federici e questa sera vi voglio leggere una poesia. Una poesia tratta da una raccolta che si chiama Lumina e la poesia si intitola L'esorcismo contrario. Va de retro, laido mio diavoletto con zelo. Sanguina, salta la ruota del fuoco, rotea, copula, trasla, ribatti colpo su colpo all'inconcludente esorcismo. Tutta l'arguta teoria delle lingue, l'ammonimento alle tue molte repliche di spirito. Ergo, recita basso il tuo carme, l'eros narciso, e diem carpe, e se possibile, dopo, vade anche mecum un poco. Aiuta queste promesse, di chi ti implora come ti pare, io che ti fustico, succhio da muscoli e ossa, ti intingo al sangue del Cristo, ti faccio un segno di croce, da questa parte ti benedico, ti segno nella voce, ti insegno finalmente una croce, ti segno nel fuoco, ti salgo agli occhi, ti cauterizzo nel capillare, nel lago, dentro il sangue ti libero, rodo al ferro nero, nel peso al collo della mia croce. Your credit is for euros. You will choose your pain, and new ways are to run. caso, sai. Ti parlerei fino a scoprire il tuo sorriso e poi arrossirei nel caso tu dovessi chiedermi come stai. Non risponderei, maledetto me. Capiterà che un giorno il mondo mi farà da sfondo per convincerti che in fondo è solo un gioco da giocare, solo tempo da passare, da fregare, che solo vita da scoprire. Capiterà che un giorno il mondo mi farà da sfondo per convincerti che in fondo è solo un gioco da giocare, che solo tempo da passare, da fregare, che solo vita da scopare. Forse potrei mentire sui tuoi lati fragili per un po'. Adorerei, però le storie si consumano, già lo sai. Li sfiorerei quanto basta per confonderti, per convincerti. E me lo dirai. Giocare solo tempo da passare, da fregare, che solo vita da scoprire. Capiterà che un giorno il mondo mi farà da sfondo per convincerti che in fondo è solo un gioco da giocare, che solo tempo da passare, da fregare, che solo vita da scopare. Capiterà che un giorno il mondo mi farà da sfondo per convincerti che in fondo è solo un gioco da giocare, solo tempo da passare, da fregare, che solo vita da scoprire. Capiterà che un giorno il mondo mi farà da sfondo per convincerti che in fondo è solo un gioco da giocare, che solo tempo da passare, da fregare, che solo vita da scopare. Cari amici, avete ascoltato un sacco di brani musicali perché abbiamo cercato per svariati minuti di metterci in contatto con Cianghito alla libreria La Poesia Incompleta completa di Lisbona. Bene, non ci siamo riusciti, quindi a questo punto pensavo di fare così. Dal momento che dobbiamo chiamare ancora Vittorio Sorliuga, fra 5 minuti, vi volevo parlare brevemente di Vincenzo D'Alessio. Vincenzo mi ha mandato un libro bellissimo, il cui titolo è Figli. Edizioni Guarini, tra l'altro Guarini è una specie di associazione che ha già dato un riconoscimento a Radio Alma e con stima e insomma e sincera stima Vincenzo ci parla del proprio figlio. Quindi semplicemente per dirvi che presto Vincenzo sarà con noi di nuovo a Radio Alma e intanto ringraziarlo pubblicamente e dirgli che scusate un attimo, butta giù il telefono Paola, ti dispiace, e che siamo comunque molto così dispiaciuti per la sorte che è successa al proprio figlio e che questo sia un monito per tutti noi, anche noi genitori, a considerare i nostri figli come un dono prezioso, perché poi nel momento in cui li perdiamo non ci sono più e quindi sono una parte della nostra vita, una parte del nostro cuore che se ne va per sempre. Ringraziamo Vincenzo e la sua famiglia per questo grande coraggio che dimostrano ogni giorno e senza sosta. E adesso direi che è giunto il momento di chiamare Vittoria. Vittoria, anche lei, questa sera ci sono problemi telefonici, quindi ne approfittiamo per mettere un altro pezzo musicale, visto che questa sera era dedicata a The Parrot e a Zeno e agli amici di Double Sense di Paola Grauso. Quindi se non vi dispiace, abbiamo ancora il tempo giusto per un brano e poi l'ultima intervista con Vittoria sul yoga. Cosa scegli Paola? The Parrots. Fantastico, grazie. Restate con noi. Cari amici, allora siamo riusciti a essere in contatto con Vittoria. Ciao Vittoria. Ciao, come stai? Bene, ce l'abbiamo fatta. Ti ringrazio di questa opportunità, mi fa molto piacere ovviamente. Bene, questa volta tu non sei in Texas, perché normalmente sei in Texas. No, adesso sono qui in Italia fino all'11 agosto, sto scrivendo il mio libro sulle dive del cinema italiano in inglese, quindi un'estate molto produttiva, fatta di poesia, di cinema e di tante cose. Bene, cosa ci vuoi leggere questa sera? Ma io avevo dei testi che vorrei leggere da Forbici, che è il mio terzo volume di poesie, è uscito per Lieto Colle nel 2006, e pensavo di leggere una selezione piuttosto breve, giusto per non annoiare eccessivamente i nostri lettori anche se, e ascoltatori, anche se so che sono molto motivati. E inizierei a leggere proprio una poesia che si intitola America. Bene. Innanzitutto il libro è sia in italiano che in inglese, ma leggerò i testi in italiano. Allora, il titolo è America e questa è la poesia. Forse un giorno, sulla soglia di casa, avrei raccolto un bambino in fasce, stretto in braccio per attraversare un campo minato. Foglie marroni nella piscina, una superficie su cui glissare fino al trampolino pronto all'esplosione di mille ciabatte di spugna oltre agli alberi. In palio una casa in periferia con giardino e vicini dai calzoni bianchi seduti composti a tavola. Non basta tornare a casa, chiudersi a doppio giro di chiavi, guardare il buio tutte le sere. Questa era la prima. Okay. Adesso leggerò un testo che riguarda, il cui tema è in pratica la mia vita al college. Io ho studiato Mount Holyoke College, che è un'università del Massachusetts, e mi sono laureata in letteratura comparata. E questo è il testo. I padri aprivano le mani sulle trecce scompigliate delle figlie iscritte al college, mani appoggiate al vetro con le forcine spezzate. Il gelo percorreva i capelli impolverati, le orecchie incapsulate, dita intirizzite sulle tempie, si paralizzavano i neuroni. La neve cadeva sulla collina in un rumore da trapanare l'anima esorcizzata a tutto, mentre noi un po' imbalsamate fissavamo la microsuperficie spalmata di latte scremato e cornflakes, davanti ai mozziconi ghiacciati sepolti nel bianco sotto alla finestra, e pensare che 10 anni dopo sarebbero stati gli anni migliori della poca vita di lamentele, proprio quando si alitava il ghiaccio nell'aria percorsa dall'ululato di lupi in corsa sulla collina di neve sporca. E poi la prossima poesia è una specie di visione onirica, un po' sulla tradizione, direi, pittorica di De Chirico e di Dalì. E questo è il testo. La tecnica consiste nello spingersi avanti con le gambe dondolanti. Una mano rimane attaccata, l'altra va avanti, poi si alternano. In sintesi, però, bisogna fare in fretta. Ci inseguono i cani sul pavimento, l'eco della bomba dal lato soffitto. Il corridoio verde ha qualche buco laterale, caricato da quadri di donne vestite a lutto, con qualche girasole in mano. Se si entra nella scuola, così almeno si sente dire in giro, ci dovrebbe essere un tappeto rosso dalle movenze di una scala mobile, si direbbe un'onda gommosa della casa degli orrori di un Luna Park. Gli ospiti vorrebbero sapere se basta nascondersi sotto ai liquori del bar per sfuggire ai vampiri. Forse bisogna informarli che hanno i denti cariati, ma soprattutto della marca da bollo se uno vuole uscire da una delle 5 porte. E poi l'ultima, che forse un po' meno alla Stephen King, ma siamo sempre su questo genere un po' noir, ed è questa. E questa è riferita alla mia vita a Houston, quando ancora insegnavo alla Rice University. Adesso infatti sono sempre in Texas, ma la Texas Tech. Allora, alle 16 calavo un'incudine in testa, un fulmine davanti al monitor del PC. La metafisica era un errore di programmazione. Grattava l'occhio riflettendo. La porta bianca apriva con un pugno su una zattera a inquinato mare aperto. Nei film dei vampiri era il segno del morso. Al lavoro a giorni alterni guidava. Addosso tutte le macchine le venivano. Le chiavi cadevano al fondo del corridoio dove servivano un caffè annacquato. Sentivi i rumori a un chilometro sobbalzando, doveva concentrarsi, seria, fissa, forte, altrimenti si dimenticava, uno dov'era, due cosa stava facendo, tre chi era. Naso, trachea, orecchie gonfie, Miss Italia soffriva l'ansia di Lady USA, le sembrava ginseng, taurina, vitamina B, dimenticava. Questi sono i testi che avrei scelto. Ci dici perché li hai scelti? No, dici piuttosto perché li hai scelti, perché sono poesie, però sembrano più brani che poesie, non so se ti sto scandalizzando. No, il punto è che non ho proprio avuto modo di sentire il termine che hai usato, se puoi ripetere. Brani come testi, nel senso... Certo, è una... delle prose poetiche vuoi dire, infatti, vero? Sì. Infatti, ma sai... io vengo da una scuola di poesia dove mi è stata impartita l'idea che scrivere in versi fosse il futuro della poesia. Infatti ho studiato a Mount Holyoke College sia con Brodsky, che era un premio Nobel della letteratura, ed è per quello che ero andata lì, che con un premio Pulitzer, il cui nome era Peter Wiereck, purtroppo entrambi mancati. E loro erano scandalizzati dal fatto che io tendessi a prediligere, non tanto nemmeno la forma libera, no, del verso libero, ma proprio il poemetto in prosa. E quindi con questi testi di forbici ho tentato di fare un compromesso, però alla fine il contenuto è talmente tanto noir e in un certo senso manca di un io lirico, che alla fine quello che cogli è proprio la struttura narrativa, cioè il contenuto prende veramente non il sopravvento in una forma che tu molto molto acutamente hai detto che si tratta di narrativa. Mm-hmm. Quindi non è assolutamente una cosa né che mi offende né che mi sconvolge, anzi una riflessione utile, direi. Ok. Senti, cosa fai in Texas? Tu insegni? Allora, io sono assistant professor di italiano, che è praticamente l'equivalente del ruolo fisso di ricercatore nelle facoltà umanistiche italiane. E insegno italiano, insegno tutto quello che ha a che vedere con l'italianistica, dalla lingua alla letteratura, alla cultura, al cinema. In modo particolare insegno corsi di letteratura e cinema. Adesso ho insegnato un corso sul cinema di Federico Fellini e quest'autunno insegnerò un corso di cinema italiano, un'introduzione al cinema italiano. Per la mia ricerca scrivo di poesia italiana contemporanea e scrivo di cinema. Perfetto. E mi sto occupando di voci autoriali e di attrici in modo particolare. Bene, ti ringraziamo perché finalmente ci siamo riuscite, perché veramente. Ma abbiamo anche un altro ospite. Quindi abbiamo anche l'altro ospite, il tuo amico, come si chiama? Il mio collega Hafiga Faiti. Infatti. Che leggerà a fine agosto. Infatti. Da Lubbock direttamente. Okay. Va bene, perfetto. In francese, credo, però. Okay. Va bene, senti cara, ti lasciamo, ti ringraziamo per aver partecipato alla Tela Sonora. E ti ringrazio moltissimo. Buona scrittura. Grazie, durante il mese d'estate. Ciao. Grazie, ciao. A presto. Ciao. Bene, cari amici, stiamo volgendo al termine. Paola, tu volevi raccontare un attimino ancora del tuo gruppo, dei tuoi amici? Sì. Dai, perché visto che abbiamo perso Cianghito per strada, perché non siamo riusciti a metterci in contatto con la libreria di Lisbona, ne approfittiamo così parli del tuo gruppo. Sì, allora, loro si chiamano Double Sense, sono campani. E uno di loro è il mio carissimo amico, lo saluto e l'abbraccio fortissimo. Come si chiama? Come si chiama? Filippo. Grazie. Ciao. Filippo, per esistere. Perché la Paola si illumina, gli occhi di Paola si illuminano al tuo nome, non vogliamo sapere nulla. No, non c'è nulla da sapere. Va bene, scherziamo un po'. Dicevo, loro si chiamano Double Sense, come dice lo stesso nome fanno dub. Dub, che cosa vuol dire? Contaminazioni, che cosa? Elettroniche. E loro fanno... Okay. Mi senti? Sì, adesso sì. Okay. Meglio. Loro fanno dub, reggae, elettronica, come si definiscono loro, quindi è un mix. Sì. E hanno suonato già l'anno scorso al Cicula Fest in tante occasioni abbastanza importanti. Hanno prodotto il loro primo album con il musicista e produttore Madaschi degli Africa Unite e con il bassista e produttore Paolo Baldini. Però. Presto uscirà il loro secondo album, quindi state sintonizzati. E che altro? Hanno collaborato con musicisti della scena underground italiana come oltre Madaschi, Baldini, Alex Soresini, Clementino, Marta Riccardi, per citarne alcuni. E che altro dire? I loro testi sono abbastanza... affrontano tematiche di riscatto sociale e di rassegnazione a quello che loro chiamano lo shitstem. Quindi loro cercano con la loro musica di come dire, opporsi al sistema, di affermare la propria identità. E che altro? Ripeto il loro sito internet. Sì, perché poi magari sul blog della Tela metteremo tutti i dati, così le persone interessate potranno andare sul blog della Tela Sonora. Quindi ripeti, è myspace.com. Allora, www.myspace.com/doublesense. Ok. E spero di invitarli presto in Belgio per qualche concerto. E li vogliamo vedere. Divertirci un po' insieme. E niente, in bocca al lupo, un abbraccio forte. Bene, ringraziamo per questa presentazione. Già che ci siamo, per non togliere nulla agli altri due gruppi, abbiamo citato prima The Parrot, di cui abbiamo mandato un pezzo per due volte, e poi è Zeno con Parteciperò. Paola, tu hai la copertina del CD Zeno. Io volevo dire due cose. Questo CD mi è stato proposto da Fabio Volpi di Note Volanti, che ringrazio, e ringrazio tutti i partecipanti che hanno risposto positivamente al comunicato stampa apparso oggi su MySpace Tela Sonora. Quindi grazie Fabio, perché hai lavorato tantissimo, grazie di averci fatto scoprire questo CD, quindi se Paola mi porta il CD io vi racconto, giusto, grazie Paola, due cose veloci, perché c'è anche una poesia qui addirittura. Vi leggo la poesia, allora, il testo Davide Olivati, Zeno, musica Davide Olivati, Zeno, Alessandro Raffaele e Gaber Rodojevic. Ti incontrerei, passavo qui un po', per caso sai, ti parlerei fino a scoprire il tuo sorriso e poi arrossirei nel caso tu dovessi chiedermi come stai, non risponderei, maledetto me. Capiterà che un giorno il mondo mi farà da sfondo per convincerti che in fondo è solo un gioco da giocare, è solo tempo da passare, da fregare, che è solo vita da scoprire. Capiterà che un giorno il mondo mi farà da sfondo per convincerti che in fondo è solo un gioco da giocare, che è solo tempo da passare, da fregare, che è solo vita da scopare. Forse potrei mentire sui tuoi lati fragili, per un po' li adorerei, però le storie si consumano, già lo sai, ti sfiorerei, quanto basta per confonderti, per convincerti, e me lo dirai, maledetto me. Che dici Paola, ce la facciamo ancora a chiudere in bellezza con Zeno? Sì, dai, possiamo provarci. Ok, allora salutiamo i nostri ospiti, ringraziamo Double Sense, ringraziamo The Parrot e ringraziamo Note Volanti Fabio, veramente un grande cuore, tutti i nostri amici che hanno partecipato, Vera Lucia Delivera, Federico Federici, Vittoria Surluga e Beatrice, e nonché Vincenzo D'Alessia per il suo libro bellissimo Figli che ci ha così inviato. Bene, vi chiudiamo qua, ci vediamo venerdì prossimo, un bacio a tutti, grazie per ascoltare Radio Alma e la Tela Sonora. E un grazie a Paola Grauso per esistere. Senza di lei la tela non ci sarebbe. No. Ascoltate bene, amici, non ci sarebbe la tela senza la Paola. Grazie, a venerdì prossimo. Ciao. Buon weekend. Passavo qui un po', per caso sai. Ti parlerei fino a scoprire il tuo sorriso e poi arrossirei nel caso tu dovessi chiedermi come stai. Non risponderei.